come un quadro senza immagini, che cerca i suoi colori in sé. Come un'ombra nella notte che non riesce più a distinguersi. Come potrei mai spiegarti che non riesco proprio più a vivere un istante senza di te? E ancora io mi confondo, non so perché. Vedo allo specchio ancora immagini di te e corro nel vento, non so dove arriverò. Cos'è successo fra noi? Lo sai che non lo so. Quelle sensazioni che io provo da quando vivo senza di te. E ancora io mi sono perso, non so perché. Successo ancora, lo sai che non.